Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuova settimana che comincia, un saluto da Francesco Galante, ma anche un saluto al presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, cominciamo la nostra settimana parlando di una notizia che è interessante perché fa capire un po' come si muove il mercato e anche come in certi casi la gente decide di acquistare una cosa piuttosto che un'altra. Parliamo infatti di una statistica, magari ci dirai da chi è stata rilevata questa cosa, dove un consumatore su 4, quindi il 25%, acquista dei falsi per poter risparmiare. Sì, ricordiamo che il 25 novembre è stata la giornata della legalità mi piace, promossa proprio dalla Confcommercio, la quale qualche giorno prima, proprio in previsione di questa giornata, ha diffuso dei dati per comprendere un attimino quella che è la situazione degli acquisti e quanti consumatori oggi acquistano ancora falsi rispetto a quelli che sono dei beni insomma originali. E certamente, come hai citato te nel titolo, è emerso che il 25,8% dei consumatori nel 2015, quindi parliamo a meno di una volta su quattro, ha comprato un prodotto o un servizio illegale. Un dato in leggera diminuzione di meno 1,2 punti rispetto all'anno precedenti, ma comunque è sempre un dato significativo che fa capire come le persone, e questo e qui ci è tornato, oltre il 70% dei consumatori ha giustificato questo genere di acquisto per motivi legati a natura economica, quindi un'esigenza fondamentalmente dettata per risparmiare. Della serie, io ho questi soldi, con questo non posso permettermi ovviamente il pezzo originale e vado sulla copia, sul falso. Sì, vado sul falso, certamente parliamo di articoli di vario genere, ma anche parliamo di rischi per la salute. Facciamo un esempio, diamo qualche numero. Il dato maggiormente contraffatto, dove c'è stato un incremento dell'11,3%, è stato per esempio l'acquisto illegale di abbigliamento. Poi c'è stato più 5,9% il settore delle calzature e più 2,8% riguardo alla pelletteria. Invece è diminuito quello appartenente alle categorie definite potenzialmente più pericolose per la salute, parliamo di alimentari, cosmetici e profumi, e qui abbiamo un dato negativo, per fortuna, meno 5,4% rispetto all'anno precedente. Una tendenza, come abbiamo detto, determinata dall'esigenza di risparmiare, e comunque non si parla solo di prodotti oggettistica, ma parliamo anche quindi di salute, e quindi qua, sai, una riflessione viene sempre naturale farla. Certo, sulla salute non si discute, ma mi vengono in mente delle notizie, insomma, di anni passati, dove alcune borse di marca venivano vendute addirittura nei negozi, no? Talmente erano fatte bene, mi viene da pensare quindi che certe volte il falso equipara quasi il vero, no? La marca. Purtroppo sì, credo che chiunque di noi ormai sia abituato a vedere anche questi marocchini che vendono questi prodotti contraffatti, come questi prodotti contraffatti oggi tendono ad assomigliare sempre di più a quelli originali, a tal punto che, come hai detto, qualcuno ha anche pensato di vendere nei negozi, confidando anche sul fatto che non tutti sono degli intenditori di provata esperienza che siano in grado di poter distinguere ormai l'originale dal contraffatto. Mi soffermo proprio anche sulla consapevolezza dei rischi per la salute, che l'80% dei consumatori, contro il 71,4%, da una parte c'è, dall'altro aumenta la consapevolezza. Due dati discordanti che però fanno un po' capire come le persone lo fanno con una certa cognizione di causa, e questo un po', come ripeto, è in contrasto, e i dati sono molto rilevanti ancora. Poi riguarda, c'è tutta la parte dedicata al commercio del turismo e al servizio dei trasporti, che chiaramente si ritiene danneggiato da questa azione di illegalità, che quindi contribuiscono anche per effetto di questa giornata o di questi dati a rivendicare questo ruolo di garante sull'acquisto di certi prodotti marchiati rispetto a quelli che magari tante volte non lo sono e che quindi, abbiamo detto, espongono il consumatore a dei rischi e a dei pericoli anche legati all'utilizzo, perché sappiamo che quando dei prodotti non sono marchiati possono essere pericolosi anche per i bambini che ci giocano, certo. Quindi anche le componentistiche elettriche rispetto ad altre dove magari si possono staccare, oltre che andare a ragionare solamente sui colori o sui materiali con cui questi vengono utilizzati. Anche adesso che poi andiamo verso Natale e per esempio sappiamo che certi prodotti possono diventare pericolosi anche per l'abitazione perché infiammabili, possono creare come le lucette cortocircuiti. Certo. Prodotti che non hanno superato gli standard di sicurezza, quindi bisogna sempre stare molto attenti al famoso marchio CE, che deve essere perfetto e non taroccato anche lì, perché poi certe volte ci capita di comprare qualcosa di falso senza rendercene conto. Sì, poi è molto curioso nell'indagine che appunto stiamo commentando comprendere come nel caso di prodotti acquistati illegali c'è una prevalenza delle donne sui maschi, il 59% è donna e normalmente poi l'età dove c'è maggior fascia di acquisto, quindi il 79% degli acquisti riguarda una fascia d'età superiore ai 35 anni con un nucleo familiare di almeno due persone, quindi c'è anche un'istruzione medio-bassa per il 72,9%, quindi abbiamo scoperto che casalinghi, e pensionati e gli operai sono anche più esposti a questo genere di acquisti, fenomeni che insomma possono avere anche una collocazione sociale. Io volevo chiederti in chiusura, quale sarà il futuro? Qua di fronte a quello che è uno scenario dove il mercato cerca di essere sempre più globale, certamente anche la contraffazione sarà sempre più difficile da contrastare. Io mi auguro che i numeri che possono aumentare almeno siano quelli che riguardano la consapevolezza, perché se sulla contraffazione possiamo aumentare la sensibilità e confidare nei controlli delle istituzioni, e pensiamo anche non solo appunto ai giochi ma anche all'alimentare o quello dei medicinali, e dobbiamo sperare che insomma la consapevolezza possa dissuadere le persone ad assumersi dei rischi dove questi non sono necessari. Certo, e vabbè, confidando insomma nell'intelligenza di ognuno di noi quando facciamo un acquisto, ringrazio il presidente dell'Adico ricordandovi il sito www.associazionedifesaconsumatori.it. Grazie al presidente Carlo Garofolini. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.